Allora, noi abbiamo avuto un dato su tutti, che è quello degli accessi alle neuropsichiatrie infantili. Nel 2024 abbiamo avuto 68.000 accessi di under 18 all'interno di una popolazione regionale under 18 di 666.000 ragazzi. Vuol dire che più del 10% nel 2024 ha avuto almeno un accesso alla neuropsichiatria. I disturbi, diciamo così, riscontrati sono i più vari, con un aumento esponenziale dei disturbi dell'alimentazione, seguiti dai disturbi d'ansia e a seguire ancora atti di autolesionismo, quindi un più 170% degli atti autolesivi. E in questo scenario ci siamo resi conto plasticamente di un disagio crescente, anche a fronte del fatto che questa rappresenta evidentemente la punta di un iceberg, perché per accedere alle neuropsichiatrie significa che, diciamo, c'è una situazione estremamente preoccupante, ma un disagio strisciante c'è in molti bambini, in molti ragazzi, e quindi su questo noi ci siamo subito interrogati, abbiamo pensato a un piano di investimenti senza precedenti, superiamo i 10 milioni quest'anno, su una serie di interventi che partono dalla primissima infanzia, tanto è vero che nel triennio formiamo 3.600 tra pediatri, educatori e educatrici dei nidi e dell'infanzia, e educatori dei centri per le famiglie e bibliotecari di biblioteche per ragazzi, per fare in modo che siano pienamente consapevoli dei rischi dell'accesso ai smartphone e device digitali fin dalla tenerissima età e che conseguentemente possano, da un lato, interpretare i campanelli d'allarme per come vanno interpretati e dall'altro relazionarsi in modo positivo e costruttivo con le famiglie per fare in modo che vi sia una consapevolezza diffusa e quindi una riduzione dell'utilizzo di questi strumenti che sono molto nocivi anche per il mondo degli adulti. In commissione dicevo, noi siamo sottoposti a una quantità di informazioni enormi che il nostro cervello non è in grado poi di gestire, tant'è vero che ci ricordiamo sempre meno, ma al contempo che generano uno stato di ansia costante. Questo anche sugli adulti, per cui il tema del benessere emotivo, psicologico e relazionale è un tema che tocca a tutti. Partendo dalla formazione, passiamo a patti digitali, coinvolgendo le famiglie, le scuole e i ragazzi in modo tale che le famiglie che scelgono di non dare lo smartphone ai propri figli possano essere in una rete, in un collegamento, in contatto con le altre famiglie che fanno questa scelta, in modo tale che poi i bambini possano relazionarsi tra loro, perché una delle criticità che le famiglie mi hanno più volte rappresentato è: ma come faccio? Se non glielo do, poi c'è soltanto lui senza, e poi come faccio che dopo è escluso dai compagni, dalla relazione con i compagni? Patti digitali serve proprio a creare questo sodalizio positivo tra scuole e genitori e ragazzi, in modo tale che si possano creare proprio degli spazi analogici e dei momenti analogici della vita. Seguiamo con il fondo adolescenza all'interno del fondo sociale, a cui abbiamo destinato più 38% delle risorse, quindi 2 milioni e 350 mila euro, anche finalizzati per esempio a educativa di strada e a ridurre questo fenomeno che sta aumentando in modo preoccupante degli hikikomori, cioè del ritiro sociale, cioè ragazzi, ragazzini il cui stato ansioso è tale da rifiutare la relazione reale, rifiutare il mondo là fuori visto e percepito come ostile e problematico, rifugiandosi sempre di più nella propria casa e financo nella propria. Inoltre mettiamo 2 milioni e mezzo sull'orientamento, per cui i ragazzini dagli 11 ai 19 anni, come vi dicevo prima, nei momenti di scelta, di crisi, cioè di scelta, al bivio di quale scuola scegliere, quale università scegliere, quale eventualmente percorso lavorativo intraprendere, possono avere un centro per ogni provincia con personale estremamente qualificato e formato che possa aiutarli nel prendere queste decisioni sfruttando al meglio i propri talenti e le proprie inclinazioni. Altro elemento per noi fondamentale è quello di scuole aperte, 2 milioni su scuole aperte. Tenere aperte le scuole, gli edifici scolastici, diciamo così, quindi fuori dalla didattica, tenere aperti gli edifici scolastici di proprietà dei comuni, delle scuole secondarie di primo grado, cioè delle scuole medie, quindi in quella fascia di età 11-13, che è sicuramente la fascia più delicata anche dal punto di vista del neurosviluppo, per far sì che i ragazzi che sono abbastanza grandini da poter rimanere a casa da soli se i genitori lavorano, ma che hanno bisogno di contenuto, di aiuto, di supporto anche di contenuto, altrimenti il rischio è che passino i pomeriggi a casa attaccati ai videogiochi o sugli smartphone, sui device digitali, oppure che poi quando escono in questa solitudine si ritrovino con altri ragazzini e mettano in campo e in atto alcune volte dei comportamenti di danneggiamento, di comportamenti devianti che rischiano di essere problematici non solo per la collettività, ma in particolare per loro, per la loro vita. Questa di scuole aperte vuol dire fare un patto tra territori, terzo settore, per riuscire a rendere gli spazi scolastici nelle ore pomeridiane dei luoghi di contenuto, di divertimento, di sport, di gioco, di relazione sana, e quindi insomma anche su questo noi abbiamo investito moltissimo. L'importo complessivo è quello di 10 milioni e 200 mila euro di investimento per fare in modo che tutta la comunità e la collettività sia in grado di prendersi cura dei nostri bambini e dei ragazzi, perché anche gli adulti hanno molto bisogno di questa consapevolezza, e tanto è vero, tra pochissimo partirà una grande campagna a tappeto informativa sui rischi dei device da parte della Regione Emilia-Romagna per fare in modo che tutti siano coinvolti e resi pienamente, pienamente consapevoli. Dal 12 ottobre abbiamo la prima domenica detox convocata dalla Regione Emilia-Romagna con il coinvolgimento preziosissimo di tutti i territori e dei comuni ai quali abbiamo chiesto di individuare delle aree della propria città, penso nei periodi invernali può essere la biblioteca, luoghi all'interno dei quali non portare lo smartphone e device digitali, quindi fare una domenica interamente analogica con attività per adulti e piccini insieme, quindi per genitori con figli, con ragazzi, adolescenti, eccetera, per fare in modo che si possa riprendere pieno piacere di stare in una relazione profonda, in una relazione in presenza e stratificare ricordi positivi. È un modo, io penso, gioioso, quindi non in positivo, non col divieto, non con la sanzione, ma è un modo gioioso per far riscoprire a ciascuno di noi il tempo lento di una relazione sana, disconnessi da questo mondo che ci tartassa tutti, compresi gli adulti, e quindi proviamo a ricreare una vita degna di questo nome, ecco.